Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Roma, 5 settembre, anno domini 476. Ultime notizie. In caduta libera l'impero d'Occidente. Sottoposto alle continue invasioni barbariche, l'impero romano d'Occidente è sull'orlo del collasso economico. Oggi è stato deposto l'ultimo imperatore Romolo Augusto per mano di Odoacre, capo dei mercenari Eruli. Odoacre, acclamato come re dai popoli barbari che lo avevano sostenuto, diviene di fatto nominato premier d'Italia. Romolo Augusto, dopo soli 10 mesi di regno, è stato privato del titolo imperiale e sottoposto agli arresti domiciliari a Baia, nella villa già abitata da Lucullo. Suo padre ora è stato invece decapitato. Da fonti ancora non confermate, sembra certo che stia per iniziare il Medioevo. Tranquilli, non iniziamo con una trasmissione dal respiro storico, non vogliamo essere didattici, non vogliamo essere noiosi, solo che ci ha incuriosito oggi, come prima giornata della ripresina di Melog, ciò che leggemmo su Wikipedia io e Fabrizio Intonti alla ricerca di ispirazioni sulla giornata di oggi. Ma tutti, chi fa radio cerca, vediamo un po' i fatti del giorno. Beh, oggi la prima voce di Wikipedia è proprio del 5 settembre, è il giorno in cui è caduto l'impero romano d'Occidente. Non so come lo abbiano definito proprio il 5 settembre. L'anno è certo, il giorno è un po' meno certo, perlomeno nella mia memoria scolastica non mi ricordavo che sia attribuibile a un giorno esatto. Però è interessante capire che oggi potremmo definirla la giornata mondiale del tramonto dell'Occidente. Chissà che se da oggi in poi tutti i 5 settembre si ricorderà, si festeggerà, si porteranno corone nelle piazze, la gente farà minuti di silenzio, i capi di Stato diranno il loro sermoncino. Oggi cadeva l'Occidente. Ma poi l'Occidente è iniziato a cadere un giorno particolare e preciso, o l'Occidente per sua stessa natura, essendo occidentale, cioè essendo sempre sul viale del tramonto, chi sta a Occidente è nato nell'area in cui tramonta il sole e quindi è in un continuo tramonto. Quindi noi occidentali siamo così umbratili, così depressi, così gelosi, così appassionati di ciò che è lontano da noi, proprio perché siamo nati a Occidente. In cosa vi sentite voi occidentali? E in cosa vi sentite decaduti? Qual è la decadenza? Forse questa sorta di bipolarità cosmica che avvolge noi occidentali, per cui passiamo i momenti di profonda macerazione, di pessimismo, di distruzione, e sentiamo come qualcosa di lontano, un'era dell'oro che ormai non ci appartiene più, e quindi precipitiamo, ma produciamo arte, produciamo filosofia, produciamo pensiero, produciamo sensibilità, conoscenza di chi ci sta vicino. E poi abbiamo momenti invece totalmente euforici, proprio come un malato psichiatrico bipolare. E quindi nel momento di euforia cosa facciamo? Conquistiamo, distruggiamo, radiamo al suolo. Ma questo lo fanno tutti, non è una nostra particolare specifica. Beh, questa mattina vi faccio una domandina molto semplice: in cosa vi sentite occidentali? Perché voi siete occidentali? Perché difendete il vostro essere occidentali? E perché difendete la pizza che poi è fatta di pomodoro che viene da lontano, che poi è fatta di qualcosa che non so, forse questo appartiene alla vostra radice profonda, verso il kebab? Il kebab è qualcosa di orientale, quindi invade le nostre piazze occidentali con il suo odore di oriente. L'oriente ci atterrisce, l'oriente è qualcosa che ci spaventa, l'oriente è il luogo da cui viene la luce e noi occidentali nella zona dell'ombra probabilmente lo invidiamo e lo temiamo. Ma qual è lo specifico del vostro essere occidentali? Perché siete occidentali? Cosa difendete nell'essere occidentali? 800 24 0024. Dominique Saint-Arnaud, direttrice del Dipartimento di Storia dell'Università, ha appena pubblicato per le edizioni dell'Ateneo un libro che si intitola Varianze dell'idea di felicità. Potrebbe parlarcene un po'? Vediamo. Beh, per esempio, il matrimonio. Nelle società stabili il matrimonio è un modo di scambio economico o politico, se non addirittura un'unità produttiva. Il che vorrebbe dire? Il che vorrebbe dire che un matrimonio riuscito non ha niente a che vedere con la felicità personale dei due individui membri della coppia. Al limite la questione non si pone nemmeno. È come se una società in via di sviluppo si preoccupasse più del bene collettivo o di un ipotetico benessere futuro che della soddisfazione dei bisogni individuali immediati. Nella letteratura dell'età romana, per esempio, il concetto di amore coniugale comincia a proliferare sotto Diocleziano, nel terzo secolo d.C., proprio nel momento in cui la struttura dell'impero entra in crisi. Il che mi fa porre un quesito paradossale. L'esasperata ricerca della felicità individuale che osserviamo oggigiorno nella nostra società non può essere in fin dei conti storicamente legata al declino dell'impero americano a cui stiamo cominciando ad assistere? 800240024, ricordo che oggi quella che abbiamo deciso che è la giornata mondiale del tramonto dell'Occidente, perché corrisponde al momento esatto, almeno secondo Wikipedia, della caduta dell'impero romano d'Occidente, abbiamo deciso di interrogarci su quale sia il senso di sentirsi occidentali, in cosa ci sentiamo occidentali, qual è lo specifico dell'essere occidentale, l'essere sempre in questa zona di eterno tramonto ci fa sentire diversi dal resto del mondo, cosa difendiamo nel nostro essere occidentali. Questo era il brano tratto dal declino dell'impero americano, questo gruppo di professionisti, intellettuali, chiacchierando e organizzando un incontro conviviale, pone l'accento su alcuni punti di una probabile crisi dell'Occidente. La ricerca esasperata della felicità, può essere questo uno dei motivi? Noi cerchiamo la felicità individuale, in questo siamo occidentali, ma siamo anche altruisti a questo punto di vista e consideriamo l'individuo, consideriamo l'altro, ci sono un'infinità di punti positivi. 800240024. Questa mattina, per aiutarmi nel definire la cifra dell'essere occidentali, o se è possibile mai dirsi occidentali, oggi difendere qualcosa che sia occidentale, ma poi perché difenderlo? Perché volere per forza tenersi legati alle proprie radici o avere una sorta di imprecisa cognizione delle proprie radici e proprio dell'essere occidentale? Ho scelto due punti di vista apparentemente antitetici, ma poi vedrete abbastanza combacianti. Ho chiesto aiuto a un filosofo e a una scrittrice di fantasy. Massimo Cacciari, buongiorno. Buongiorno. Cacciari, so che è una domanda che meriterebbe molto più tempo per essere approfondita, anche perché sono vari secoli che ci si pone, ma è possibile definire quale sia il senso di sentirsi occidentali? Perché essere occidentali merita una definizione rispetto alle nostre infinite crisi di identità? Ah, certamente sì, è molto, molto semplice, tra virgolette. L'Occidente, l'idea dell'Occidente nasce in un'epoca precisa, in un'epoca assiale, come si dice, diciamo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo, in quell'area del destino che fu la Grecia, tutta la sua estensione mediterranea, e nasce con un'idea, cioè che la nostra vita debba essere orientata sulla base del Logos, che vuol dire linguaggio, ma vuol dire anche rapporto, misura, ragione, logica alla fine. Cioè che la nostra vita debba essere orientata sulla base di evidenze razionalmente teorizzabili, al limite calcolabili, misurabili, e questo è alla radice di tutta la nostra episteme, cioè scienza, prima ancora della nostra filosofia, della nostra logica della scoperta, della nostra curiositas a partire da Ulisse già nei poemi omerici nei confronti di tutto il diverso, della nostra logica anche di conquista che è una parte di questa curiositas, che è indistricabilmente unita a questa curiositas, e questa razza occidentale è diventata il mondo. Quindi parlare di tramonto dell'Occidente è pura insensatezza. Bisognerebbe parlare di compimento dell'Occidente, perché oggi il mondo è totalmente occidentalizzato, cioè non c'è nessuna parte del mondo che non ragioni sulla base del logos che l'Occidente ha definito e scoperto. Quindi in realtà l'equazione per cui l'Occidente ha, adesso non voglio fare citazioni che il nostro pubblico forse non apprezzerebbe, ma sia in un continuo ciclo evolutivo, quasi un organismo che ha un inizio, un'epoca privilegiata e poi una decadenza, e questo continuo nostro macerarsi sul fatto che l'Occidente sia continuamente sotto attentato, sia in crisi, che viene qualcosa di lontano e sconosciuto che ci mette in tremebonda attesa della nostra fine, è insensato secondo lei? Totalmente insensato. L'Occidente ha conquistato non soltanto militarmente, anche perché certamente l'Occidente non ha lasciato in pace nessuno. questo diciamo è ben noto, ma comunque ha conquistato non solo per la forza, per la potenza delle sue armi, che poi non sono nient'altro che l'effetto della sua potenza logica, razionale, tecnico-scientifica, eccetera, e ha compiuto la sua missione, piaccia o no. Cioè, ormai non c'è luogo del mondo che non sia occidentalizzato, cioè che non ritenga che i problemi ragionevoli debbano essere posti in modo scientifico, tecnico-scientifico, e che non ritenga che la soluzione ai nostri problemi è una soluzione tecnico-scientifica. Questa è la nostra forma mentis occidentale, che è diventata la forma mentis dell'intero pianeta. Quindi questo andrà oltre ogni tipo di conquista economica, di conquista fisica del territorio. Dopodiché questo mica significa che finiscono le contraddizioni. Ah, certo, assolutamente. Perché la concorrenza, la competizione, la lotta tra interessi diversi c'è stata, ci sarà e si manterrà, ma sarà sempre all'interno dello stesso sistema valoriale, sempre all'interno della stessa gerarchia di valori. Fabio, buongiorno, primo ascoltatore. Sentito, buongiorno, Cacciari dice che l'Occidente comunque ha svolto e continua a svolgere, ha messo il seme della razionalità. Possono anche prenderci, metterci in catene, conquistarci economicamente, colonizzare le nostre città, le nostre scuole, ma prevarrà il pensiero razionale occidentale. Infatti il pensiero occidentale è sempre stato preponderante, ma non solo nelle arti, nelle scienze, ma anche nella religione. Non a caso il Cristo ha diffuso il suo messaggio partendo dall'Oriente per arrivare in tutto l'Occidente. Io volevo sottolineare invece un altro aspetto interessante. Nelle epoche storiche che vanno, appunto, come era la vostra sigla, dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente a oggi, abbiamo avuto una fase di espansione dall'Oriente verso Occidente con Gengis Khan, che arrivò quasi, anzi, oltre l'Ungheria, la Bulgaria, eccetera, eccetera. Poi abbiamo una fase di espansione medio orientale verso l'Occidente con l'islamismo, con i musulmani, con Maometto, tutte le conquiste che hanno fatto in Africa e fino ad arrivare addirittura in Spagna, quasi in Francia, in Italia, se non era per i paladini, e dall'altro lato invece arrivò fino alle porte di Vienna. Non dimentichiamo che quindi l'Occidente è stato aggredito più di una volta nella storia, ma ha sempre saputo riprendersi efficacemente. Adesso l'attacco che sta subendo è un attacco di carattere non tanto ideologico, ma economico. Abbiamo avuto anche un problema ideologico in passato, vi ricordate, con il blocco comunista. Noi eravamo l'Occidente, la NATO, il Patto Atlantico, contro invece un blocco comunista che si definiva internazionalista, quindi non occidentale, ma forse panmondialista, marxista. Sempre figlio dell'Occidente, comunque, come espressione di pensiero. Anzi. Sì, figliastro, figliaccio, figlio Giuda traditore. Vabbè, adesso ognuno ha il suo punto di vista. Cerchiamo di ragionare in termini razionali. 90 milioni di morti grazie al marxismo non sono pochi. Hitler ne ha fatti una decina, fra ebrei e quant'altri, bombardamenti civili. Gengis Khan da solo ha fatto più di tutti questi messi insieme. Gengis visto che Khan ha fatto meglio della peste nera, meglio della peste nera. Ha cambiato proprio la mentalità dell'epoca. Grazie Gengis Fabio. Khan. Sentiamo Silvana De Mari. Silvana De Mari, scrittrice di fantasy, con un suo punto di vista sicuramente interessante rispetto a quanto stiamo dicendo. Cacciari, che ha collocato nel VI secolo avanti Cristo l'inizio, la nascita del pensiero occidentale, però ti faccio notare, Silvana, che per la metafisica indù quello proprio l'inizio della fase ultima dell'età del ferro, del Kali Yuga, quindi dal punto di vista orientale lì inizia la decadenza. Buongiorno a tutti, io vi parlerò di un sistema, proviamo a ragionare per favore in termini non razionali. Perché il cervello razionale è solamente un terzo del nostro cervello, i due terzi del nostro cervello sono emotivi. Noi ragioniamo per via razionale, certo, ma questo si deve intrecciare con l'intelligenza analogica. L'io intuitivo è il dono, diceva Einstein, l'io razionale è il servo, non confondiamo il servo con il dono, quindi vi parlerò di neurobiologia. Noi non possiamo vivere senza i sistemi serotoninergici e endorfinici che funzionino, altrimenti sono scoperti come un'ustione di terzo grado. Quando io ho qualcuno che mi ama e questo qualcuno è più forte di me, può essere il mio Dio o il mio genitore, ma attenzione, deve essere un genitore che stimo. Io vado un po' più indietro, all'età del bronzo, sul Sinai, i 10 comandamenti. Uno di questi comandamenti onora il padre e la madre, c'è lo stesso nel buddismo. Se non onoro il padre e la madre, che mi succede? Vado all'inferno? Non lo so, ma di sicuro l'inferno in terra. Perché se io non stimo i miei genitori, io sistemi endorfinici scoperti. Se io non ho affiliazioni al gruppo, e queste affiliazioni al gruppo mi sono dati dal rito, dal mito, dalla quaresima, dal Natale, io il sistema serotoninergico scoperto. E cercherò disperatamente affiliazioni al gruppo, dove le trovo, può essere il piercing, può essere un'affiliazione tribale alla partita di calcio, un'affiliazione tribale al partito. Faccio due esempi per capire quello che sto dicendo. C'è stato poco tempo fa un documentario su una gara internazionale di break dance, cioè si tratta di una danza di rottura. C'erano anche per ragazzi venuti dalla Corea del Sud o dal Giappone. Tutti quei ragazzi venuti dall'Estremo Oriente, alla domanda perché vuoi vincere, hanno risposto: per onorare la mia nazione e i miei genitori. Noi lo troveremo folle. Ma attenzione, noi abbiamo abbattuto le nostre radici. Noi siamo in un parricidio. Il primo parricidio importante, in realtà il secondo. Quindi, scusa Silvana, mi sembra di capire che non sei d'accordo con quello che sosteneva Cacciari. Secondo te, in realtà, esiste una percepibile crisi profonda nell'Occidente? Esiste una crisi profonda che può portarci in due strade: o moriamo o risorgiamo, e per la prima volta riusciamo a fare il nostro vero compito. Scusa, mi serviva un po' di sintesi poi per dare un elemento alle persone poi per intervenire. Quindi questa caduta di punti di riferimento emotivi propri dell'Occidente è uno dei motivi, secondo te? Assolutamente della... sì. Il nostro punto di riferimento, l'Occidente, nasce dalla fusione di tre cose, in realtà sono quattro, ma la quarta la diciamo dopo. La filosofia greca, senz'altro, il diritto romano, che se si fosse perso ci saremmo fatti mille anni in più di Medioevo, ma il punto fondamentale è la religione biblico-evangelica. E ne sbaglia Benedetto Croce quando dice: noi non possiamo non dirci cristiani, anche se siamo liberi pensatori, è rilevante, noi non possiamo dirci ebreo-cristiani, perché sul Sinai una legge uguale per tutti è nato il primo concetto, che poi evolverà fino alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, il fatto che non, lo schiavo e il padrone abbiano gli stessi diritti. Inoltre sul Sinai, come dice Lewis, che accidente, Lewis è l'autore delle Cronache di Narnia, scusate, io sono uno scrittore fantasy. Ma certo, e Tolkien e Lewis ci hanno scritto nero su bianco che loro nei loro libri hanno nascosto la spiritualità biblico-evangelica, che dall'illuminismo in poi, ma soprattutto nel XX secolo, con le due tremende religioni atee che sono il comunismo sovietico e il nazismo tedesco, che sono religioni atee, non sono movimenti politici, sono movimenti religiosi, messianici e salvifici, vengono presi a calci dappertutto. Ci dice Lewis, coi 10 comandamenti, con la legge, uno non può essere tanto pezzente da non poter avere una morte degna. I 10 comandamenti non ci dicono devi essere bello e devi essere forte. C'era la rupe a Sparta, c'era la rupe a Roma dove si buttavano i bambini malformati. Non ci dicono devi essere seppellito, per cui il padre di Ettore non va più a chiedere il cadavere del figlio d'Achille. Non importa, non dicono neanche devi essere vincitore, dove senza la vittoria non c'entrava nel regno dei morti, allora Silvana, scusa Silvana, so che devo un attimo fermarti, facciamo un punto, se no non riusciamo a definire bene l'argomento. Adesso lascio la linea un istante alle informazioni della borsa, poi con Massimo Cacciari cerchiamo di riprendere il punto. Mi sembra di aver capito che in realtà Silvana De Mari coglie profonde e radicali condizioni di contraddizione dell'Occidente, che ci darebbero questo senso quasi di continua ansia, di continua crisi di identità. Non è così certo, così sicuro, che in realtà lo spirito razionale che forma le radici dell'Occidente ancora ci illumini a punto tale di darci la tranquillità e la serenità di sentirci occidentali. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Orbene, 800 24 0024. Adesso la parola agli ascoltatori. Abbiamo sentito due punti di vista, poi li reintegreremo senz'altro sulla nostra domanda di oggi, affidandoci a uno strumento probabilmente fallace o incerto o allo stesso tempo molto contemporaneo come Wikipedia, abbiamo definito che oggi fosse la giornata mondiale della decadenza dell'Occidente, o del tramonto dell'Occidente, scegliete voi. Il 5 settembre, anno domini 476, cade l'impero romano d'Occidente. Non vuol dire assolutamente nulla da un punto di vista oggettivo, però ci fa pensare che forse è una buona occasione per riflettere sull'essere occidentali. Sentiamo velocemente Antonio. Antonio, cosa la fa sentire occidentale? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. mi fa sentire occidentale constatare di essere sempre arrivati primi, insomma, siamo arrivati primi, abbiamo pensato più degli altri, ci siamo mossi più degli altri, abbiamo avuto le condizioni favorevoli. Ma perché pensiamo sempre in termini storici di passato? Sa, qualcuno potrebbe obiettare, no, sono arrivati qui prima gli arabi, qua prima i cinesi, addirittura anche l'America l'hanno scoperta prima, che ne so, i navigatori cinesi. Sì, fermiamoci un attimo, viviamo il nostro immediato presente. In questo momento, cos'è? Lei veste all'occidentale, mangia all'occidentale, pensa all'occidentale, sì. Si contrappone a un altro mondo che vede differente, per questo rivendica l'essere occidentale? Sì, non rivendico l'essere occidentale, che poi è una questione anche di fortuna. Fossi nato di là non sarebbe stato tutto diverso, però noi siamo qua, ci stiamo e ci stiamo anche bene, è comunque dove si sta meglio al mondo, è che con tutto il bene e il male, le contraddizioni e tutto quant'altro, l'uomo sta meglio in Occidente che ovunque è, in qualsiasi altra area. Cos'è che la fa sentire meglio, però? Quel senso di ragionamento, di razionalità, di sconfitta delle verità assolute, di messa in discussione di ogni momento la realtà, questa è la cifra dell'essere occidentale. Mi fa stare meglio, e poi avere ancora oggi, io sono cosciente che se c'è una possibilità, c'è attraverso la forza, diciamo, la tradizione dell'Occidente, che ha ancora la capacità di indirizzare, perché alla fine, come dicevano prima diceva soprattutto Massimo Cacciare, cioè comunque abbiamo vinto la battaglia ideologica. Lo diceva anche la signora di cui non ricordo il nome, Silvana De Mari, una scrittrice di fantasy, un pochettino più versata sul fronte diciamo di grandi temi, di grandi... Cacciari è stato anche pratico, direi. Quindi se c'è una possibilità è qua, perché sono d'accordo con lui che comunque il mondo oggi, avendo a che fare con l'Occidente, con l'Occidente, i soldi li ha fatti con l'Occidente tutti, e poi la lotta è contro l'Occidente per mantenere diciamo modi e tradizioni che noi non facciamo fatica a condividere. Bene, sentiamo Marcello. Buongiorno, grazie. Ma è una riflessione che si riaggancia sostanzialmente all'affermazione di Cacciari, che è condivisibile. Il fatto che l'Occidente oramai non abbia più nulla da conquistare comporterà inevitabilmente che l'Occidente, quello vecchio parlo, intendo dire, sarà inevitabilmente anche lui oggetto di conquista o perlomeno di confronto diverso. La crisi finanziaria che stiamo vivendo oggi, secondo me, comincia a esserne un buon esempio. E riallacciandomi a questo punto, diciamo così, al tema che lei aveva proposto per questa trasmissione, secondo me questa situazione comporterà per l'Occidente, per il vecchio Occidente, per l'Europa, per gli Stati Uniti, un futuro sicuramente peggiore, perché indiani, brasiliani, cinesi, che prima erano oggetto delle nostre esportazioni, della nostra conquista, del nostro dominio, oggi sono competitor molto più validi, perché il lavoro costa di meno, eccetera, eccetera, e quindi ci massacreranno. Logicamente l'ascoltatore si orienta a un taglio tipo economico. Massimo Cacciari, vediamo di rifare un punto. È probabilmente proprio il calo di benessere che segna un sintomo di decadenza, almeno perlomeno così è percepito da qualche ascoltatore, oppure, che ne so, i fondamentalismi che vengono d'Oriente sono una minaccia reale per questo spirito di libertà di pensiero, di elasticità che lei aveva detto all'inizio come elemento essenziale dell'Occidente? Ma l'Occidente in tutta la sua storia è stato sempre minacciato. Questo non ha mutato il destino. Il destino è quello e si sta inverando, cioè quello che se nuove guerre ci dovranno essere, se nuove competizioni ci dovranno essere, saranno guerre civili, guerre all'interno della stessa dimensione tecnico-scientifica, guerre condotte in nome della stessa razionalità, così come fanno i fondamentalismi stessi. I fondamentalismi hanno un aspetto apparentemente appartenente al passato, un passato religioso, ideologico, in realtà sono guerre condotte con tutti gli strumenti tipici della razionalità tecnico-scientifica, se no non potrebbero avere neanche la minima possibilità di essere. Quindi l'antimodernismo è soltanto una bandiera, in realtà vorrebbero affondare le zanne nel grande bisteccone del benessere. Una cattiva ideologia. I movimenti fondamentali anche nell'Islam oggi sono movimenti che attraverso infinite tragiche contraddizioni, ma la contraddizione è immanente allo spirito stesso dell'Occidente. L'Occidente non è un'unità indifferenziata, non è un uno mistico, è un'armonia di molti contrapposti, è un'armonia di arco e di lira. L'arco porta la morte, la lira musica, eccetera, eccetera. Cioè, questo lo sappiamo fin dalle origini, che l'Occidente proceda per contraddizioni, lacerazioni e tragedie. Questo lo sappiamo fin dalle origini del nostro logos. E questo è anche uno dei nostri valori, lo secondo lei, Cacciari, questa nostra liquidità, eh? Questa nostra... mi conceda il termine ambiguità. Valori nel senso che sono le strutture portanti del nostro sistema di pensare e di vivere, valori in questo senso qui. Dopodiché è chiaro che ci sono state civiltà, forse ci sono ancora, forse possiamo ancora parlare di culture che hanno una gerarchia di valori completamente diversa, ma ciò non toglie che nella comparazione, nella competizione tra questi valori, alla fine si è affermata la gerarchia di valori occidentali. Questo è un matter of fact, non c'è niente da fare. Dopodiché, ma è quello che corrisponde al termine proprio civilizzazione. La civilizzazione è qualcosa che non è mai perfettamente definito, se no diventa un'imposizione di un pensiero unico. Ma è evidente, l'Occidente non è pensiero unico, non può essere pensiero unico. Questa era la contraddizione palese e al limite anche patetica, per esempio, di certi conservatori reazionari americani. Pensare che l'Occidente significasse l'affermazione di un pensiero unico. L'Occidente significa contraddizione che via via viene superata attraverso la potenza superiore del ragionamento tecnico-scientifico, ma se non c'è la contraddizione, se non c'è l'elemento del negativo, non c'è neanche l'elemento del positivo nel pensiero occidentale. Questo è il proprio della dialettica del pensiero occidentale, che l'ha reso più potente rispetto agli altri, non perché appunto pensiero unico, ma perché pensiamo che armonizza gli opposti. Poi si rende conto, Cacciari, che non c'è un'antitesi reale nel mondo a questo pensiero. Ci stavo riflettendo adesso. Una volta potevamo dire le grandi metafisiche, ma oggi possiamo contrapporre, vede, soltanto i fondamentalismi, soltanto il bieco e brutale distruttivismo. Dei fondamentalismi che apparentemente si contrappongono a questo pensiero, perché ripeto, non è possibile per questi fondamentalismi affermarsi in nessun modo se non attraverso poi procedure tecniche proprie della nostra razionalità. Ma se pensiamo che alla fine il terrorista si fa saltare in aria, vuole un paradiso fatto di vergini da poter stuprare, alla ma fine... l'organizzazione di quel terrorista, non guardi il terrorista che si fa saltare in aria, so che è difficile farlo, ma non guardi a quello, guardi l'organizzazione in cui quel terrorista che si fa saltare in aria è inserito. È quell'organizzazione che lo fa saltare in aria, quell'organizzazione è retta da principi propri della nostra razionalità. Quindi hanno imparato da noi e applicano in maniera distorta e sbagliata quello che in fondo è la radice del nostro pensiero. In quel modo lì, perché appunto è proprio tra l'altro della razionalità occidentale vera, matura, quella veramente dei grandi occidentali, è proprio non... presumere che il fatto che la nostra razionalità si sia affermata significa che è la migliore. Assolutamente no. Non è possibile giudicare la superiorità di una gerarchia di valori rispetto a un'altra. È impossibile logicamente questo giudizio. Quindi noi possiamo soltanto dire che questa gerarchia di valori si è affermata occidentalizzando il pianeta. Questo possiamo dire, ma questo non significa che sia superiore, perché questo comporterebbe la contraddizione di quello che abbiamo detto. No, comporterebbe un terzo che giudica dall'alto la mia scala di valori e quella di un induista o di un bramino, eccetera. Sentiamo un attimo Gianni, che secondo me dice una cosa sensata. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Gianni da Mestre. Nel mio piccolo mi piaceva ricordare le cose di cui sono orgoglioso di essere occidentale, cioè avere una rappresentatività parlamentare, un diritto di voto, avere i diritti dell'uomo che sono sanciti già da tanto tempo, avere l'idea, almeno anche se non è applicata del tutto, della parità tra uomo e donna. Ci sono delle cose di cui sono orgoglioso, anche se magari economicamente può darsi che l'Occidente stia perdendo forza, però sono cose di cui sono orgoglioso, di cui sono contento di far parte di la pari mondo. Dignità degli individui sin dalla nascita, già questo mi sembra. Poi quanto queste cose siano applicate realmente, concretamente, l'atto pratico fa parte della nostra fallibile natura umana, ma perlomeno questi principi sono stati proclamati, o sbaglio? Certo, questo, ecco, questo era il mio senso. Quando si è connu, quando si è reconnu, perché se perdre de vue, se reperdre de vue, quando si è retrouvé, quando si è réchauffé, perché se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour. 800-24-0024. Anche probabilmente una delle caratteristiche per cui ci diciamo occidentali è che ci piace, rispettiamo, amiamo, a volte abbiamo anche una profonda e insanabile lussura nel muoversi attraverso le contraddizioni. Lo leggo dagli sms delle persone che scrivono, lo vedo dal tenore delle telefonate. L'Occidente, probabilmente una delle caratteristiche dell'essere occidentali, è avere la facoltà del dubbio. Questa potrebbe essere una delle caratteristiche. Silvana De Mari, scrittrice di fantasy, riprendiamo un attimo il punto. Mi sembra che tu allora, dicessi che in realtà... sì, prego, prego. Sì, sì. Lo posso spiegare con un esempio? Sì, brava. Io il dubbio non ce l'ho. Beata te. Grazie. Nel 32 d.C. l'adultera è stata graziata. La lapidazione dell'adultera era funzionale per uscire dalla prigione. Bisognava garantire agli uomini il possesso del corpo delle donne, perché altrimenti non si massacravano per mantenere dei bambini che non sapevano. Beh, noi avevamo il delitto d'onore fino a qualche decennio fa in Italia, abbastanza tollerato. Esatto, 2000 anni ce ne siamo liberati, poteva andare peggio. L'adultera è stata graziata. A scanso di equivoci vorrei chiarire che io sono un'adultera, anche perché col marito ho avuto rapporti sessuali. Matrimonio, quindi sono in tutto e per tutto un'adultera, per Dio, quando l'idiota di turno parla della lapidazione dell'adultera, signori, sta parlando di me. Allora, la lapidazione dell'adultera è stata reintrodotta da un generale che si chiamava Maometto, che ha fondato una religione terribilmente funzionale in epoca medievale. In epoca moderna questa religione diventa disfunzionale, perché dove non c'è pensiero filologico non c'è pensiero filosofico, dove non c'è pensiero filosofico non c'è pensiero scientifico, tecnologico ed economico, e riesce a spiegarsela perché al denaro del petrolio questo è un altro discorso. In questo momento in Europa c'è un tizio che si chiama Ali Ramadan, per non fare altri nomi, fratello del mitico Tariq, il quale spiega normalmente alla televisione svizzera, perché abita a Ginevra in giacca e cravatta, come la lapidazione dell'adultera sia fondamentale, senza che nessuno dei gli intervistatori, che sono tutti campioni mondiali del dubbio, pensi semplicemente a sputargli in faccia. Io non ho dubbi che lapidare l'adultera sia sbagliato, perché si sta parlando della mia lapidazione. E a un certo punto, fermo restando che un sistema deve essere elastico, perché la verità non è una sola. Lapidare mi insegna la mia civilizzazione comunque sbagliato sempre, fosse anche un assassino. La lapidazione, la giustizia attraverso la pena capitale, trovo che sia qualcosa. Attenzione, che la giustizia attraverso la pena capitale sia qualcosa di sbagliato è fortunatamente un'acquisizione che noi abbiamo, è un'acquisizione molto recente, è un'acquisizione che arriva grazie al cristianesimo. Ma attenzione, se dopo 3 gradi di giudizio in Texas viene ucciso una persona che aveva ammazzato 4 persone e stuprato 5, è una giustizia barbarica, ma è una giustizia. La lapidazione dell'adultera è ingiustizia, non mettiamo tutto sullo stesso lato, sullo stesso piano, perché l'adultera non aveva fatto male a nessuno. Quindi mentre l'assassino dell'assassino, insisto, sono contrario alla pena di morte, ma è una forma barbarica di giustizia. Sì, no, ho capito la differenza che ponete, fa parte della difesa, della legittima difesa. Allora è giusto che il pensiero sia elastico, ma io non posso affermare che tutto il contrario di tutto possa essere contemporaneamente presente. Inoltre, se salta il cristianesimo, salta anche la dichiarazione di diritti dell'uomo, perché la dichiarazione di diritti dell'uomo è nata lì. Quando l'Europa rinnega il cristianesimo, la religione biblico-evangelica, con chi la rinnega? Con l'illuminismo. Non sono degli stinchi di santo queste divinità della ragione. Vogliamo ricordare cosa ha detto Voltaire? I negri devono essere inferiori, e se non possono essere schiavi è meglio che siano uccisi. Vogliamo ricordare cosa dice questo genio su negri e ebrei? Vogliamo ricordare cosa dice Kant? L'unica struttura che ha difeso malamente, senza sputarci l'anima, almeno ci ha provato, gli africani dal cristianesimo, in quanti figli di Dio, signori, è il cattolicesimo. Notare che sono un libero pensatore. Ma la storia che nel momento in quindi cui secondo è stato te Silvana, se non ti freno, scusami, arriviamo che non riusciamo nemmeno a chiarire un concetto. Su te il vero specifico dell'Occidente è stato il cattolicesimo, che in fondo il vero specifico dell'Occidente è la religione biblico-evangelica, per carità di Dio, non confondiamo. Vabbè, una volta che rinnega questo, l'Occidente muore. Sì. Lo capiscono Tolkien e Lewis, fondatori del grande fantasy. Ecco, diciamo, la tua lettura è questa. Noi abbiamo avuto qualcosa che non appartiene soltanto alla scoperta della razionalità del libero pensiero, che è una forma estremamente umana di considerare gli esseri umani, ecco, scusatemi il giro di parole, che è questo, che è la religione. La nostra religione è quella che ci ha salvato. L'attacco alla nostra religione è quello che probabilmente è l'elemento più pericoloso per la nostra identità. Sentiamo Elisa però un attimo. Elisa, buongiorno. Pronto, buongiorno, chiamo da Treviso. Io ho mandato un sms in cui dicevo che per me essere occidentali significa che nella mia vita ho sposato chi ho voluto, ho fatto gli studi che ho voluto, tra l'altro ingegneria, ma soprattutto che posso dire in un certo senso quello che mi pare e soprattutto scherzarci sopra. Posso raccontare le barzellette su Berlusconi, come su Obama, come su Bersani e anche su Gesù. Quindi diciamo essere occidentali e avere essersi conquistati o... Molte volte non lo valutiamo mai quanto sia importante. Il senso della libertà di poter esprimere un proprio pensiero. Sì, e anche scherzare soprattutto. Il senso dell'ironia, che è la più detestabile delle espressioni umane, secondo i fondamentalismi. Avere la possibilità di esprimersi ironicamente, di scherzare, di deformare la realtà e giocare sulle deformazioni della realtà. Silvana De Mari, quello che dice Lisa lo condividi? È meraviglioso quello che dice Lisa, ma soprattutto io vorrei fare su un punto il bambino. La società occidentale è l'unica che protegge il bambino. Noi viviamo con orrore lo scandalo dei pedofili, perché da noi la pedofilia è vietata, mentre è normale dare la bambina al bambino. Ma il punto fondamentale è la difesa del bambino, che non c'è fuori del cristianesimo. Figlio della ragione, Lenin comincia con lo sterminio della famiglia dello zar. Lo zar era un tiranno, come negarlo, ma nessuno della polizia zarista che ha osato tolgere un capello alla moglie e ai figli degli oppositori politici. Manca la protezione del bambino nel nazismo, manca la protezione del bambino adesso. Noi siamo talmente privi di fede in noi stessi, perché nessuno ci ha insegnato a essere fieri dei nostri padri, che l'Occidente ha perso la colonna portante degli esseri viventi, che è l'istinto materno. Noi rischiamo di estinguerci perché facciamo meno di due figli per madre. Ma come, scusa, se sembra che uno dei motivi peggiori del nostro diciamo rilassamento sia proprio il mammismo imperante che mina le radici, la mascolinità, il senso di responsabilità. Proprio così, perché sono stati rinnegati i padri, ed è il padre, a cominciare da Marcello Bernardi, che descrive la famiglia come un nucleo politico dove il padre capitalista opprime il figlio e i padri sono le radici, i padri sono il passato. Sì, ma tutti i pensieri nostra, che tu stai citando... sono tutti frutti dell'Occidente, mica sono nati da nessuna esatto, parte. Esatto, ma certo, perché sì, sì. Siamo strepitosi, siamo straordinari. Ah, ecco, l'umanità è passata a 6 miliardi perché noi abbiamo eliminato il vaiolo. Sentiamo Monica un attimo, sentiamo Monica, scusa un attimo. Silvana, scusa un attimo, con te mi posso permettere anche di segarti. Monica. Pronto, buongiorno. Innanzitutto grazie, perché oggi mi trovo con uno dei più grandi pensatori, il professor Cacciari e la dottoressa De Mari, che va dal dunque, non si perde in salamelecchi occidentali. Grazie a lei. Penso che io, a parte che sono in contraddizione netta con l'interlocutore di qualche telefonata fa, vada al punto, sennò assaggerà la motosega occidentale. No, ascolti, secondo me, cosa contraddistingue noi occidentali dagli altri? Parli per lei. Per me? Sì. Sicuramente idee e coraggio, ma questo non è una prerogativa solo nostra. Sicuramente idee e coraggio. Lei scrive, ho letto, leggo così l'aiuto un po', sennò si perde. Il non sentirsi superiore, non sentire la superiorità dell'Occidente rispetto agli altri è la nostra caratteristica più splendida, secondo lei? Io non la sento, cioè no, assolutamente ho avuto anche esperienze lavorative e umane che mi hanno portato a riconsiderare, a riformulare questa propria idea, e purtroppo in quello in cui stiamo cadendo noi, occidentalismo, perché adesso almeno dal tono delle telefonate, dagli interventi, ho sentito proprio questo suffisso applicato, ismo, che sappiamo quanti danni ha fatto a tutto quello che poteva essere ideologia. Sì, ma non si può nemmeno essere un grande crogiolo e minestrone dove ci stanno tutte le verdure. Ricavarsi qualche motivo di differenza, secondo me, ci aiuta anche a crescere, o no? Sicuramente sapere chi siamo, questo è fondamentale, però come ha detto lei ultimamente, cioè rendersi conto se viviamo ancora l'occidentale, questo mi sembra che non sia più così, ma per me è una... Perché dice Cacciari, tutto il mondo ormai vive l'occidentale. allora tutto diventa un melting pot. Probabilmente questo. Silvana De Mari, io ti dico come la penso io. Cosa significa per me essere occidentale? Ma è una cosa personalissima. È la possibilità e la capacità di sovrascrivere ogni giorno il proprio pensiero, senza pensare che ci sia nulla di sacro, nulla di inviolabile, intoccabile in quello che si aveva pensato. Sei d'accordo? È questo uno dei limiti o degli splendori dell'essere occidentale? È la base dello splendore, la filologia. Dove c'è pensiero filologico c'è pensiero filosofico, dove c'è pensiero filosofico c'è pensiero scientifico, tecnologico, dove c'è pensiero filologico, dove il pensiero filologico è vietato, noi abbiamo delle società senza futuro, noi rischiamo di non avere più il futuro perché abbiamo eliminato i padri, anche fisicamente, il padre è colui che deve staccare il bambino dalla madre per evitare che questi due facciano un rapporto simbiotico, noi ci troviamo bambini che arrivano a prima... Ecco, questo è... un atto veramente vessatorio e molto occidentale. L'amica fraterna e la profonda commentatrice di Radio 24, Silvana De Mari, è stata motosegata, perché questo è un gesto iniziale per festeggiare la giornata nazionale del tramonto dell'Occidente. Melog 2.0. Alors tous deux, on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.